I lavori di domani di Anna Marino. Valorizzare la diversità di genere, coltivare le competenze tecnologiche, investire nel Sud Italia. Sono gli obiettivi di un percorso di formazione e crescita in ambito tecnologico e informatico che incoraggiano particolarmente le candidature femminili ancora poco presenti nelle aree ICT. Si chiama Talent on Tech, innovativo progetto di Ernst & Young rivolto ai talenti del Sud Italia con un focus sulle donne. Ci racconta questa imperdibile opportunità Francesca Giraudo, soprattutto sulla formazione di questa figura dello Junior Technology Specialist relativa appunto al progetto Talent on Tech. Qual è questa figura? In che cosa consiste questa figura di Junior Technology Specialist? Sono principalmente giovani diplomati che si dedicheranno a delle attività di sviluppo nei confronti dei nostri clienti, principalmente sviluppi tecnologici, quindi applicativi aziendali, SAP piuttosto che Microsoft, così come nuove tecnologie, artificial intelligence, robot, eccetera. Dettagliamo un po' di più ovviamente perché riguarda anche molto le donne, ma c'è anche una bella prospettiva diciamo non solo di formazione ma un plug and play, cioè subito all'opera. Ecco, in che cosa consiste questo progetto? Allora, il progetto consiste in realtà in assunzione di giovani provenienti direttamente dagli istituti tecnici e non solo. Prevede delle prove di inserimento, un paio di settimane di formazione e poi appunto andare sul campo e lavorare per i nostri clienti, principalmente dalla sede appunto di Bari. Che formazione di base devono avere queste figure? Allora, nulla di specifico, nel senso che noi come EY ci prendiamo in carico la formazione, quindi il background può essere, non deve essere principalmente tecnico, quindi può essere anche un background generalistico, e poi noi andiamo a fare formazione di base, quindi la classica sicurezza, formazione anche sulle soft skill, quindi capacità di comunicazione e di interazione anche da remoto, perché molto spesso l'interazione avverrà da remoto, e poi appunto formazione tecnica a seconda poi dell'attività che andranno a fare. Quali altre figure sono, diciamo, più gettonate all'interno del mondo delle imprese e, secondo il vostro punto di vista, privilegiato? Allora, in questo momento tantissime ricerche sono legate al mondo dell'artificial intelligence, sono legate al mondo del robotics, e quindi la capacità di sviluppare dei sistemi in grado di automatizzare, di creare dei pattern rispetto al volume incredibile di informazioni che noi oggi abbiamo a disposizione. Quindi queste sono figure veramente preziose e molto molto ricercate. Che devono avere anche una grande capacità di gestire per esempio la programmazione e i software specifici. Esattamente. Software e grandissimo approccio, diciamo, strutturato, razionale e capacità di gestire grandissimi volumi di dati strutturati e non strutturati. Dal vostro punto di vista privilegiato, avete verificato che queste figure sono davvero gettonate in questo momento? Sono molto, molto gettonate. Le aziende come la nostra, ma non solo, le ricercano, è il classico profilo STEM, per cui effettivamente sono profili molto difficili da trovare, e quello che noi stiamo facendo è appunto aprire anche a chi non ha un background specifico, prendendoci l'impegno di fare formazione, di fare upskilling e portare appunto rapidamente le persone a poter lavorare su progetti tecnologici. Andiamo nel pratico allora, come ci si può informare, dove aderire a questo progetto, se ovviamente ci sono degli step successivi, insomma, che possono essere utilizzati per essere inseriti, dove ci si può rivolgere? Allora, la pagina principale è www.talentontech.it, dove si trovano tutte le informazioni, ovviamente oltre al portale Careers di EY e le nostre pagine social, quindi seguire EY Careers su LinkedIn. Quante persone porterete, insomma, a lavorare come Junior Technology Specialist? Allora, noi puntiamo ad avere 50 persone entro il 4 marzo, quindi i tempi sono rapidissimi, per poi arrivare a 200 persone nel corso dei prossimi 2 anni. Il Sud come entra in gioco? Il Sud è per noi in questo momento un bacino preferenziale. Noi vogliamo portare occupazione al sud. Bari diventerà l'hub principale di UAI nel Mezzogiorno d'Italia e vorremmo portare anche tanta occupazione femminile. Quindi sono figure che voi cercate, che sono diplomati, insomma 200 diplomati interessati ad iniziare questo percorso, vuol dire che cercate insomma competenze base, sono queste le competenze, le skill di base che sono necessarie, bisogna poi aggiungere come un Lego diverse altre skill? Esatto, cioè, noi cerchiamo nel diploma la competenza base e poi man mano andiamo ad aggiungere con un mix di formazione on the job e formazione tecnica e specifica d'aula le competenze che servono per avere successo con i nostri clienti. Il target insomma è questo, ma il tipo di guadagno qual è? Cioè c'è una forchetta, un da A, come si arriva insomma a guadagnare di più grazie a questa specializzazione? Allora si parte da 19.500 euro, poi man mano si cresce, la forchetta è 19.000-23.000 e poi la capacità è appunto quella di crescere, di dimostrare il proprio potenziale e poter crescere un'azienda grande come la nostra multinazionale, ecco. Come HR anche tu hai dovuto fare un upgrade, dove ti sei formata e come hai aggiunto competenze anche nella tua professione? Allora, io ho un background da scienze politiche, quindi anch'io ho dovuto riformarmi e riskillarmi prima in ambito HR e poi anche per noi sempre di più sul mondo degli analytics e sul mondo della tecnologia. Il social recruiting, la comunicazione sui canali social non esisteva praticamente quando abbiamo incominciato questo mestiere, oggi è il cuore e la base di come facciamo comunicazione interna ed esterna e di come parliamo ai ragazzi. Ecco, c'è bisogno anche per te di muoverti, andare anche a Bari a vedere questo delivery center, com'è? Questo delivery center? Allora, il delivery center adesso sta nascendo e quindi abbiamo dei bellissimi progetti, una bellissima area all'interno del Politecnico di Bari, un'altra sede l'abbiamo acquistata, la stiamo ristrutturando, quindi sarà stupenda. In questo momento è un cantiere ma sta crescendo. Sarà comunque collegata con le diverse, diciamo, i diversi hub di tutto il mondo. Esattamente, è un delivery center non solo per l'Italia ma sarà un delivery center per l'Europa, quindi l'obiettivo è di portare in Italia occupazione non solo per il bacino italiano ma anche per le altre nazioni europee. E allora non resta che dare dei consigli per la selezione, insomma, quali consigli diamo a questi giovani e soprattutto queste giovani donne, perché avete anche puntato su questo, sul fatto che siano anche competenti in STEM per arruolarne di più? Esattamente. Allora, il consiglio è quello innanzitutto di mettersi alla prova, non aver paura, candidarsi, compilare diciamo le domande e soprattutto mettersi diciamo con tanta buona volontà, con tanta apertura, con tanta voglia di imparare, perché questo è veramente l'ingrediente fondamentale per il successo non solo in questa posizione ma in qualsiasi posizione diciamo lavorativa. Ecco, un appello soprattutto alle donne, diciamo, ne assumerete, volete appunto incentivare questo ingresso? Vogliamo incentivare l'ingresso di donne. Vogliamo anche sfatare un mito, perché la tecnologia non è qualcosa di prevalentemente maschile. Le donne possono portare il loro contributo, possono portare il loro approccio e abbiamo tantissimi casi di successo e crediamo che anche Bari possa essere un caso di successo in questo senso. Quindi la linea di partenza, diciamo, è uguale per tutti? La linea di partenza è assolutamente uguale per tutti.